ci interessa innanzitutto che non venga nuovamente riscritta la storia sulle fosse ardeatine, perché ricordiamolo, per chi non lo sappia, è il boia delle fosse ardeatine, colui che ha fatto eseguire l'ordine dei 330 italiani o romani che sono stati giustiziati in risposta in rappresaglia a quello che fu l'attentato nei confronti di una carovana di nazisti che passava per Roma, esattamente in via Rasella. Come dicevo, non ci interessa la sorte di Priebke personalmente, ma ci interessa che venga recuperato il filo della memoria. Ci troviamo sempre più in pieno revisionismo storico. Giampaolo Pansa, col suo ultimo libro, ha scavalcato a destra un personaggio discutibile come Renzo De Felice. Qui noi vogliamo così rilanciare questo appuntamento che è alle ore 15 sulla scalinata del Campidoglio, insieme a tutti i soggetti che in questa città ancora si sentono democraticamente antifascisti. Crediamo che l'antifascismo e la memoria storica vada recuperata. Non ci piacciono i discorsi che sono stati fatti negli ultimi tempi da Violante, comunque da molti personaggi del centro-sinistra, ma anche e non soltanto della destra. Penso a Violante, penso a Rutelli, penso a Ciampi, che in qualche modo ha cercato di far passare la resistenza come una sorta di guerra civile. Non è stata una guerra civile, ma è stata una guerra è stata una lotta di liberazione nazionale, così almeno fino a qualche anno fa. Roma è piena di storia, il Campidoglio lo è stato, questa città è stata medaglia d'oro alla resistenza, il San Lorenzo parla chiaro, la Garbatella parla chiaro, la storia è leggibile, è visibile, basta andare al Quadraro, basta andare al Pinniero, ci sono tantissime lapidi di partigiani uccisi dai nazifascisti.